avanti, avanti sul canale 10, c'è qualcuno all'ascolto? Attento, Billy, Brigido, ci sei? Attenzione, Brigido, Billy. Сообщение дальнобойщику. Автоматическая трансляция. Приготовьте и писать номер телефона. Осуществляем полное техническое обследование автомобильных систем кондиционирования. Проверка остаточного давления. Отрисовка системы азотом. Проверка электрики кондиционера. Производим заправку фреоном только после полной проверки системы вашего автомобиля. Режим работы из 9 до 20 часов. Телефон для связи. 8-911-926-41-43. Anche la domenica mattina. Ci sono tanti motivi per cui dovreste scegliere. Tutto accogliente, il personale splendido e le... Attento Cingo! Vabbè, briciola! Non la risposto! Brigido! Ehi, biondo! Dal culo pallido! E beh, Brigido, che fai? Sono stato adesso a letto, do Natalia. Ah, cappa, allora te ne... Fatti un bel caffè, va! Se no non connetti! No, adesso mi mangio un mezzo maialetto, che è in forno! Stasera alle 5 torna via a lavoro. E allora sto arrivando. Cazzo, non vedo il caffè. Io già faccio un caffè. Ma se mi hai detto del maialetto sto arrivando. Ehi, non ce n'è problema. Non ce n'è problema. Cazzo, ma il caffè. Io cazzo con una persona delicata come me, un caffè mi prendo. E va bene, non lo sapevo io. Che te ti piace bere un pochino di un caffè. Che pizzina, Manuè. Perché c'è Luca? Ma non lo sento a Luca. Ah, so, vedere che parole fanno. E allora? C'è Martola. Quello c'ha le orecchie pelose, c'ha. E allora? Sto cercando di lo so. Stasera alle 5 devi andare, così è. No, stasera alle 7 devo essere a Castel Sardo, Natale. E insomma, già è vicino. Sì, mezz'oretta, signore. Signore. Dai, ci sentiamo, Natale, casomai più tardi, prima di andare a lavoro. Eia, ok. Controlla il maialetto, mi. Sì, già è pronto, già è per tutto. Croccante. E ci cambiamo. Su, su che andiamo. Vabbè, ciao, Manuè. Ti lascio il tuo da fare, che anch'io mi devo mettere i fornelli adesso, va. Ci sentiamo alle prossime. Eia, ciao, Natale. Buona domenica, buon tutto, dai. Ciao, ciao, anche a te. E beh, non c'è nessuno oggi in questa frequenza così abbandonata. Non abbandonate la frequenza della 27. Appello a tutti gli appassionati della radio, non abbandonate la frequenza della 27. Claudio, ci sei in ascolto? Oh Giulio. purtroppo io sto cucinando, ti ho sentito da cucina, capito? Sei rientrato prima, è entrato anche Emanuele, poco fa stavo parlando con Emanuele. Buona giornata e buona domenica giù, io me ne torno a cucinare. Ok Natalia, ok dai, attendi pure in cucina che è quasi l'ora del desio, per cui è meglio preparare. Ci sentiamo, buona giornata anche a te, alle prossime. Ciao, ciao. Ciao Giù, ciao. Mi dispiace ma è già ora di cucinare. Non c'è problema, non c'è problema Natalia, io quel compito lì non lo devo assolvere perché ci pensa mia moglie, per cui va bene, per me è tutto fatto. Ciao Natalia, ci sentiamo alle prossime, cucina pure. Ok. Flippelo, ci sei o non ci sei? Ci fai o non ci fai? Allora già ci sei. Ciao Giulio. Ciao, non ti ho conosciuto, chi sei? Non ti ho riconosciuto. Tonino sono, dai. Ah, ciao Tonino. Oh, grazie. È già un giorno senza sentirti adesso. E beh, come va Toni? Già va bene. Come mi ascolti con questa radio? Bene, benissimo, benissimo. Poc'anzi non ti ho riconosciuto perché hai fatto un'entrata veloce nel salutarmi. Va benissimo Toni, non c'è problema. Ok, meglio così, dai. E niente, ho provato a spolverare questo baracchino che era fermo da roba di un annetto quasi. Ah, dunque lo devi far scaldare un pochino, no? E vabbè, ogni tanto ci vuole anche quello. Va bene, funziona benissimo, non c'è problema. Alla grande. L'importante è quello, Giulio. E qua, sei solo o c'è altra gente? Sono solo, ho fatto una chiamatina poc'anzi e ha risposto il notarino, però è ai fornelli, dunque è impegnato in cucina, per cui ha dovuto lasciare, comunque è entrato a salutarmi. Capo. Anche lui vuole fare lo chef, il cuoco, va bene. Lui si diletta sempre a fare queste cose, anche perché in passato diciamo che era, non dico il suo mestiere, ma quasi. Lui si è considerato che ha fatto il pasticcere per un bel po' di tempo, quando era un pochino più giovane. Adesso no, ormai è vecchio, non lavora più. Ti ho sentito dire Duiccio, è più giovane di me. La provocazione. Tony, questa è la mia provocazione per farlo uscire dal guscio, è quello il problema, solo che lui adesso purtroppo è impegnato in cucina, per cui non lo so se risponde, ma era una provocazione perché so che è all'ascolto. Stasera provo ad alzare il microfono da tavolo con questo baracchino, vediamo un po' se ci riesco, dato che ho fatto tutto nuovo e il saldatore, perché quella stazione per il saldatore mi si era rotto, ho trovato l'occasione e ho comprato un altro uguale, almeno posso saldare. Raga. Ah, il saldatore si era rotto? Io l'avevo comprato tanto tempo fa, l'ho usato pochissimo, infatti è nuovo, di quelli con la cosa, come si dice, con il voltaggio e anche per i gradi di calore digitali. Bello, un bel saldatore veramente. E funziona che è una meraviglia, quelli appunto moderni di oggi, dai. E anche questa è la stazione base di saldatore, c'è tanto di una specie di aimuto di ferro, di acciaio che ne metti la far per saldare dentro, c'hai il potenziometro che aumenti la potenza, tutte queste cose qua. L'avevo comprato stesso da Lido io, con la marca tedesca. Niente, ma poi non saldava più, non scaldava più, il stagno non lo scioglieva più, capito? Tutto resta, accende, funziona, però non devo cambiare la punta, non lo so, comunque. Allora me ne ho comprato un altro uguale, così a me non mi frega. C'ho quello anche fisso, quell'altro a pistola, e c'è mo che non sei venegato giù, sono sempre comparente, ma... Infatti quello è il problema, è quello che per noi basta uno e ciccia e se va avanti con lo stesso, è utile stare a comprare tante, anch'io prima ero così, ma adesso ho cambiato sistema, per cui no, non è il caso. Anche il fatto di baracchini, prima ne avevo 12, adesso ne ho solamente due e uno che è sempre in stand-by, che non lo uso mai, e praticamente tre, però quello è come se non l'avessi perché è conservato, anche perché quello me l'aveva regalato un Claudio qualche anno fa, è una KB23, però di nuovo solamente il CRT e basta, poi il resto. E l'altro che l'ho messo a mano l'altro giorno perché non trasmetteva, però riceveva tranquillamente, e adesso funziona anche, perché si trattava solo di fare una saldatura che era fredda, era per quello che non trasmetteva. E tu lo conosci bene anche quello, quel famoso base che tu avevi conosciuto tempo fa, te ricordi? Ah, già ho capito, sì, già me lo ricordo. Niente, io ho dato via tutto, ci ho messo solo due baracchini, un 23 e un 40, poi basta, non sono omologati. Sono altro, tutto dato via, tanto erano tanto i barasoni, buttati qua, eccetera, eccetera. Va bene così. Niente, voglio dare adesso stasera il microfono, quello famoso che esce forte, lo Shure. Se qualche persona dice, tanto l'ho salutato, però da me, no, niente. Tu puoi pagare bene, se vuoi con lo Shure, anche con John Bedina, se no rimane qua, a me non mi dà fastidio. E comunque me lo piazzo stasera, adesso vediamo un po'. Tanto. Il più ho tutto fatto stamattina, da una parte all'altra, boh, basta. Non devo più uscire. Mo c'ho una provvista per il minimo 10 giorni che non esco da casa. Vabbè, dico nel senso, non esco per comprare altra roba da mangiare, quello ce ne ho anche troppo, che va bene così. Posso uscire per altri motivi, ma non facendo tutta la spesa. Poi è stato preso così, ho trovato anche pochissima gente, era solo lì a fare la fila, capito? Tu pensa che alla cassa la signorina mi ha fatto lei più veloce di me, perché detto, facevo lei e battevo e mettevo nel carretto, già me la metto il sistema dopo nelle buste fuori in macchina, così non facevo fare la fila a altre persone. E lei era veloce, però io ero più veloce di lì, ma è molto più veloce di me, beh, ci hanno abituato, io non c'è problema, non si preoccupi. Andiamo Giulio, e via. Ma comunque, Natalino, niente, aspetta Baracchino, è in ascolto, Ricchi, porto anche lui. No, è all'ascolto, me l'ha detto che era all'ascolto, per cui però non poteva mollare perché stava cucinando. Sì, ma è così, Torino, è venuto ad avere tante cose, intanto poi una alla volta si utilizzano, poi per utilizzare sempre le stesse cose, per far che fanno lo stesso lavoro, non so quanto ne valga la pena spendere soldi così, per cui è per quello che mi sono liberato di tutto. Anche il K, non ce l'ho più, mi avevo indotto anche il K, non mi interessava più. Tanto più che mi si era anche guastato, per cui per l'ennesima volta, va bene che ce l'avevo più di 10-12 anni, ma già per la quarta volta si era fermato, sempre il discorso dei puntini, e allora me ne sono liberato, però mi è rimasto il microfono, mi è rimasto l'MC60, quello ce l'ho sempre, ho dato solo la radio praticamente, che poi tra l'altro non funzionava, l'ho venduto proprio così, proprio me ne sono liberato. Vabbè, comunque non c'è problema, tanto questa frequenza ce l'abbiamo sempre, baracchino c'è sempre, questo omologato che sto usando adesso, vedo che mi sentono ugualmente un po' dappertutto, anche a Berchida mi hanno sentito tempo fa, per cui non c'è problema. Va bene Tony, mi basta così e sono contento. Poi tanto cosa si modula nel 10, 23, qualche uno nel 20, o il 12. Da lì non scappano, capito? Vabbè, tanto ci siamo molti canali. Io accendo anche poco, sto accendendo perché è molto inaffarato giù. Quindi non è che ho tutto il tempo. Qualche volta accendo, spazio, non c'è nessuno, bus, spengo, ma roba di secondi, E infatti una persona ha detto, ma col tempo di prendere il microfono e dire, ce l'ho io, subito spegni, beh, se non vede nessuno, una volta fischiato, non mi ha risposto, allora ho continuato a modulare. Niente, ma poi ripeto, faccio una spazzolata, non c'è nessuno, spiego tutto, mi guardo la televisione, qualche film in altri canali, e dirò che, insomma, non è più come una volta, poca gente, poi d'estate neanche uno entrava, nulla, allora ho tenuto per mesi fermo, se me ne ha fatta sempre, tanto non c'è nessuno, tutti quanti sono che al mare, che divertimento, e mi già fatto tutte le quelle che dovevo fare, le cose mie, e sono stato più tranquillo. Sì, mi dispiace così, infatti, soprattutto questa estate che sta agli sgoccioli, così adesso che sta passando, siamo arrivati agli sgoccioli dell'estate, diciamo che c'è stato un assenteismo grandissimo in questa frequenza, per cui non c'era mai nessuno. Anch'io quando accendevo, cosa stavo a fare lì? Sì, alle volte magari lo lasciavo solo una mezz'oretta là, qualcuno entrerà, poi spegnevo, perché intanto era inutile tenere acceso se non c'era nessuno per parlare con chi, col muro. Non aveva senso, ma comunque evidentemente la gente preferiva farsi una passeggiata, magari andasse al mare, eccetera eccetera, e ragione per cui era normalissimo questo fatto che non ci fosse nessuno. Adesso vediamo un po' che incomincia il tempo un pochino ad essere un pochino più leggero rispetto al fatto del caldo, speriamo che rientri qualcuno, se no pazienza, vuol dire che vivremo lo stesso, Tony. No, tanto il baracchino da mangiare non ce ne dà. Oh, di certo no, è un passatempo, dai. Quando hai proprio un cavolo da fare, non sai cosa fare, vedi, si faccia del baracchino, fra due chiacchierate con gli amici, se c'è qualcuno, se non c'è, a trovare meglio stacca e spegno di tutto. Andrà bene, va bene, dai, io Giulio, come ho fatto la spesa, caso strano mi sono preso una bella baghetta calda calda, ma ci credi che a casa mia non è neanche arrivata. A chi me la giovane in macchina era troppo buona, guarda, le ho tolto la poppa piano piano guidando e mangiando. Oh, yeah. Infatti non c'ho neanche più appetito, oggi non cucino niente, non me la fotti nulla, stasera qualche cosa me la farò. E niente, ho preso anche a farmi un bel brodo di pollo, e quello me lo farò con calma domani. Stasera, niente di strano, me lo farò preparare stasera a me. Quindi, a me il brodo di pollo piace moltissimo, ho preso tutta la roba che mi serve, patate, cipolla, carota, sedano, capito? E quindi, problemi non ne ho. Ok, dai giù, io mi assento, che devo sistemare ancora qualche cosina, perché fuori ho messo qualche cosa che devo sistemare dentro il box. Ok, semmai già ci sentiamo, dai. Senti, stasera due chiacchierate già ce la faccio. Ce la facciamo lì verso, non so, 6:30, 7, perché non vai mai nessuno, cacchissura, non ho capito, perché ieri ho acceso, non c'era nessuno. Beh, vabbè, io provo a farti qualche chiamata, se ci si ci facciamo due chiacchierate. Ok giù, salutami il cuore, a buon pranzo, quando lo fai, stammi bene, e il cuore sta anche da parte mia. Ciao ciao. Ok, ciao Tony, io intanto ti ringrazio per le quattro chiacchiere, sei stato molto ben accetto da parte mia, non c'è problema, ci mancherebbe, tu lo sai, no? Per cui speriamo di risentirci molto presto, magari anche stasera se coincidono gli orari, che più visto considerato, come stai dicendo tu, che quando accendiamo non c'è nessuno, allora è inutile tenere acceso, però i tentativi già li faccio io di riscontrare qualcuno in frequenza, per cui sperando di riuscire a poter fare quattro chiacchiere anche stasera. Ciao Tony, salutoni, buon trabacco in cucina, sicuramente adesso lo farai, e dopodiché buon appetito, per cui non c'è problema, ci sentiamo alle prossime, e grazie ancora per la chiacchierata, è stato un piacere, ciao Tony, alle prossime. E giù anche da parte mia, no, niente appetito, che oggi ho mangiato questa baghetta, ma saziato, sarebbe per oggi basta per me. Ok, d'accordo, ci sentiamo, stammi bene, ciao. Ok, ciao ciao Tony, e allora io adesso mi stacco un attimo e vado a prendermi l'integratore, cioè devo prendere tutte le mattine un 10 mg di integratore, una specie di cicchetto, io lo chiamo così cicchetto, però in realtà è buono anche perché è dolce, io sono goloso, per cui già mi piace, è un integratore che praticamente è una cura che sto facendo, che dovrò fare per lunghissimo tempo, oltre al fatto di un'altra applicazione anche mattiniera e anche serale, per cui dovrò farlo per tutta la vita. Vabbè, i problemi della salute non spariscono mai, ci sono sempre. Ciao Tonita, alle prossime, ciao. Ok, ciao ciao.